Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il Commesso di Bernard Malamud, traduzione di Giancarlo Buzzi. I profitti del negozio, specialmente tra Natale e Capodanno, continuarono ad aumentare. Nell'ultima quindicina di dicembre, Morris fece un incasso medio eccezionale di $190. Ida aveva una sua teoria per spiegare il rialzo degli affari. A qualche isolato da lì, in un fabbricato nuovo, si affittavano appartamenti. Per giunta, aveva sentito dire che Schmitz non curava più il suo negozio come prima. I negozianti scapoli non sono sempre costanti sul lavoro. Morris non negava tutto questo, ma seguitava ad attribuire gran parte del successo al commesso. Per motivi che a lui saltavano all'occhio, ai clienti piaceva Frank e portavano nel negozio gli amici. Helen la pensava allo stesso modo di suo padre. Frank aveva cambiato la loro sorte. Ricordando ciò che le aveva detto quella notte al parco, delle sue ambizioni e del suo desiderio di farsi un'istruzione, sentiva che un giorno avrebbe avuto quello che voleva, perché era evidente che non era un uomo qualsiasi. Lo trovava spesso in biblioteca. Quasi ogni volta che vi si recava, Helen lo vedeva seduto a uno dei tavoli davanti a un libro aperto e si chiedeva se tutto quel che faceva durante il tempo libero fosse di venire lì a leggere. Lo stimava per questo. Lei si recava in biblioteca in media 2 volte alla settimana, prendendo solo un libro o 2 per volta, perché ritornare per un altro libro era una delle sue poche gioie. Anche quando si sentiva più sola, le piaceva trovarsi in mezzo ai libri, sebbene qualche volta fosse deprimente vedere il numero di libri che non aveva letto. In principio provava un certo imbarazzo a incontrare Frank così spesso. Perché frequentava quel posto? Ma una biblioteca era una biblioteca e lui ci veniva, come lei, per soddisfare certe esigenze. Come lei, Frank leggeva molto perché era solo, pensava Helen. Cominciò a pensare così dopo che lui le ebbe raccontato della ragazza del circo. A poco cominciò a non sentirsi più a disagio. Lui se ne andava di solito insieme a lei, ma se lei voleva fare la strada da sola, Frank la lasciava in pace. Qualche volta, mentre Helen andava a piedi, lui tornava in autobus. Qualche volta, invece, lei prendeva l'autobus e lo vedeva andare a piedi. Di solito, però, finché il clima non divenne troppo rigido, tornavano a casa insieme. E un paio di volte fecero una puntata al parco. Lui raccontò altre cose sul proprio conto. Una sera, mentre sedevano su una panchina in un angolo appartato del parco, dietro lo spiazzo recintato da alberi, Frank le disse di essersi finalmente deciso a iscriversi all'università in autunno. La cosa eccitò Helen, che per ore non riuscì a pensare ad altro. Immaginava tutti i corsi interessanti che Frank avrebbe potuto seguire, lo invidiava per la gente in gamba che avrebbe incontrato a scuola, per il piacere che gli avrebbe dato lo studio. Se lo figurava ben vestito, coi capelli più corti, col naso magari raddrizzato, capace di parlare un inglese più corretto, pieno di interesse per la musica e la letteratura, occupato a studiare la politica, la psicologia, la filosofia, tanto più desideroso di apprendere quanto più conosceva e sempre più ricco, quindi, di prestigio agli occhi propri e altrui. Chiudendo gli occhi, poteva anche fantasticare di quando, miracolo dei miracoli, Helen Bober avrebbe frequentato quell'università non da estranea, che ci andava di fretta la sera ad ascoltare un paio di corsi per tornare al mattino dopo alla Levensville Louisville Poultice and Brass. Almeno Frank le dava modo di sognare. Per aiutarlo a prepararsi per l'università, Helen gli consigliò di leggere qualche buon romanzo, qualcuno dei grandi classici. Le piaceva l'idea che Frank amasse i romanzi e in essi apprezzasse ciò che lei apprezzava. Scelse per lui Madame Bovary, Anna Karenina e Delitto e Castigo, tutti scritti da autori di cui lui conosceva malapena il nome, ma Helen gli disse che erano libri eccellenti. Frank notò che Helen maneggiava con rispetto quei volumi dalle pagine ingiallite, come se tenesse tra le mani le opere di Dio, come se, a suo modo di vedere, ci si potesse leggere tutto ciò che non si poteva ignorare, la verità sull'esistenza stessa. Frank si portò in camera i tre libri, si avvolse in una coperta per ripararsi dal freddo che penetrava attraverso le intellaiature sconnesse della finestra e cominciò faticosamente a leggere. Gli riusciva difficile immedesimarsi nelle vicende, perché i personaggi e i luoghi non gli erano familiari, i loro nomi erano strani e difficili da ricordare, e alcune frasi così maledettamente complicate che prima di arrivare in fondo si era belle dimenticato il principio. Lesse con dispetto le prime pagine, cercando di farsi strada in una selva di vicende e di gesti bizzarri. Osservò per ore le parole, cominciando prima un libro, poi l'altro, poi il terzo. Alla fine, esasperato, li buttò da parte. Siccome però Helen aveva letto quei libri e li amava, si prese vergogna di non aver fatto altrettanto. Così ne raccolse uno dal pavimento e si rimise a leggerlo. A mano che si trascinava attraverso i primi capitoli, la lettura gli diventava sempre più facile ed egli prendeva interesse ai personaggi e alle loro vite, per un verso o per l'altro ferite, qualche volta mortalmente. Da principio Frank lesse a strappi, poi con scatti di strana avidità, e in poco tempo riuscì a finire i libri. Aveva cominciato Madame Bovary con una certa curiosità, ma alla fine provò un senso di disgusto, di stanchezza e di freddezza. Pur sentendo una certa pena per lei e per il modo in cui erano andate le cose, fino a condurre all'unica soluzione possibile della sua morte, non capiva come qualcuno potesse desiderare di scrivere di una donna del genere. Anna Karenina gli piaceva di più. Era una donna più interessante e a letto era migliore. Non avrebbe voluto che alla fine si buttasse sotto il treno. Tuttavia, pur rendendosi conto che poteva anche smettere di leggere, Frank era commosso dal profondo mutamento intervenuto in Levin, nel bosco, subito dopo che gli era balenato il pensiero di impiccarsi. Perlomeno Levin voleva vivere. Per Delitto e Castigo provava avversione, eppure ne era affascinato, con tutti quei personaggi che ogni volta che aprivano bocca avevano qualcosa da confessare, debolezze, malattie, delitti. Una sera di pioggia, mentre Helen stava per salire da Frank per chiedergli di riprendersi qualcosa che le aveva regalato e che lei non voleva accettare, suonò il telefono. E Ida uscì in fretta nell'atrio a chiamarla. Frank, che se ne stava sdraiato sul letto in camera sua a guardare la finestra bagnata di pioggia, la sentì scendere le scale. Morris stava facendo qualcosa in negozio quando entrò Helen. Ida, invece, sedeva nel retro davanti a una tazza di tè. «È Nat», sussurrò Ida senza muoversi. «Adesso farà finta di non ascoltare», pensò Helen. Il suo primo impulso fu non aver voglia di parlare con lo studente, ma la voce di lui era calda, il che per Nat significava uno sforzo eccezionale, e una voce calda in una notte di pioggia era pur sempre una voce calda. «Non ti si vede più, Helen», esordì Nat. «Dove ti sei nascosta?» «Oh, sono stata qui», disse lei cercando di nascondere un leggero tremito nella voce. È da un pezzo che ho voglia di vederti, Helen. Cosa ne diresti di andare a teatro sabato sera? Potrei fermarmi a prendere i biglietti domani, tornando a casa. Grazie, Ned, ma non credo. Udì sua madre sospirare. Ned si schiarì la voce. Helen, onestamente, vorrei sapere come dovrebbe fare uno a difendersi quando non ha idea di che cosa lo si accusi. Che delitto ho commesso? Vuota il sacco. Non sono un avvocato. Non faccio processi. E allora parliamo di causa. Qual è la causa? Un giorno siamo vicini, il giorno dopo io mi trovo solo come un cane a rigirarmi il cappello in mano. Mi vuoi dire, per favore, cosa ho fatto? Lasciamo perdere. Senti, bella, riprese Ned con tono affettuoso. Il telefono non è il mezzo adatto per discutere i nostri rapporti intimi. Cosa ne diresti se facessi un salto su da te subito? Dobbiamo arrivare a capirci da persone ragionevoli. Non sono poi un porco, Helen. Quello che non ti va di fare sta a te deciderlo. Sicché tu non vuoi fare una certa cosa. Ma lascia almeno che siamo amici e che usciamo insieme una volta ogni tanto. Lasciami venire su a parlare con te. Un'altra volta, Annette. Adesso ho qualcosa da fare. E cosa sarebbe? Un'altra volta, ripete lei. E perché no? Rispose amabilmente Ned. Quando lui riattaccò il ricevitore, Helen indugiò accanto al telefono, chiedendosi se si era comportata come doveva. Aveva l'impressione di no. Ida entrò in cucina. Cosa voleva Ned? Così, chiacchierare. Ti ha chiesto di uscire insieme? Helen non lo negò. E tu? Cosa gli hai risposto? Un'altra volta. Cosa vuol dire un'altra volta? Ribatté Ida con asprezza. Sei forse diventata una vecchia signora, Helen? Che gusto ci provi a startene seduta solo in camera tua tutte le sante sere? Si diventa ricchi a leggere libri? Cosa ti prende? Niente, mamma. Uscì dal negozio passando dall'atrio. Non dimenticare che hai 23 anni, le gridò dietro Ida. Non lo dimenticherò. Quando fu in camera sua, il nervosismo crebbe. Rifletté sul da farsi. Non voleva, però sentiva di doverlo fare. Si erano visti, lei e Frank, la sera prima in biblioteca, per la terza volta in 8 giorni. Al momento di uscire notò che lui reggeva imbarazzato un pacco. Helen pensò che contenesse camicie o biancheria, ma sulla strada di casa Frank buttò via la sigaretta e, sotto il lampione, le diede il pacco. Ecco, è per lei. Per me? Cos'è? Vedrà. Lei prese il pacco un po' riluttante e lo ringraziò. Per il resto del percorso Helen portò il pacco imbarazzata. Era stata colta di sorpresa. Se ci avesse riflettuto un momento, l'avrebbe rifiutato col pretesto che era bene per loro due rimanere soltanto amici, perché secondo Helen non si conoscevano veramente. Ma una volta che ebbe il pacco in mano, non ebbe il coraggio di chiedergli di riprenderselo. Era una scatola di formato medio che conteneva qualcosa di pesante. Un libro, pensò Helen. Eppure sembrava troppo grande per un libro. Mentre reggeva il pacco contro il petto, provò un sussulto di desiderio per Frank e si sentì a disagio. Erano arrivati quasi a casa. Gli augurò nervosamente la buonanotte e lo precedette. Quando la finestra del negozio era ancora illuminata, si separavano così. Ida era giù con Morris quando Helen entrò in casa, sicché non ci furono domande. Tremava un poco disfacendo il pacco sul letto, pronta a nasconderlo appena avesse sentito un passo sulle scale. Sollevando il coperchio della scatola, vide che conteneva 2 pacchetti avvolti in carta velina bianca e legati con nastri rossi malamente annodati. Da Frank, evidentemente. Quando ebbe slegato il primo pacchetto, Helen si sentì mozzare il fiato alla vista di una lunga sciarpa fatta a mano, una splendida lana nera lavorata con filo dorato. Trasalì, scoprendo il secondo regalo, un'edizione rilegata in pelle rossa dei drammi di Shakespeare. Non c'era biglietto. L'indomani sera, dopo essersi tormentata per tutta la giornata, sentì che glieli doveva rendere. E adesso rimpianse di non averglieli resi prima della telefonata di Ned, perché così sarebbe stata meno nervosa all'apparecchio. Helen si inginocchiò e tirò fuori da sotto il letto la scatola con la sciarpa e il libro. La commuoveva il fatto che Frank le avesse regalato degli oggetti così graziosi, tanto più belli dei regali che aveva ricevuto da altri. Ned, quando proprio aveva voluto strafare, era arrivato fino a mezza dozzina di piccole rose. «I regali si pagano», pensò Helen. Tirò un profondo sospiro, prese la scatola e salì silenziosamente le scale. Bussò timidamente all'uscio di Frank. Lui aveva riconosciuto il suo passo e l'aspettava dietro la porta. Aveva i pugni contratti, le unghie ficcate nei palmi. Quando aprì e gli occhi gli caddero su ciò che Helen aveva in mano, corrugò le sopracciglia come se avesse ricevuto uno schiaffo. Helen entrò imbarazzata nella stanza, chiudendosi rapidamente la porta alle spalle. Represse un brivido al vedere la strettezza e la nudità dell'ambiente. Sul letto disfatto giaceva un calzino che Frank stava cercando di rammendare. «Sono a casa, Fuso?» chiese sommessamente. «Sono usciti», parlò con voce sorda, gli occhi disperatamente fissi sui regali. Helen gli porse la scatola. «Grazie davvero, Frank», disse sforzandosi di sorridere, «ma non credo proprio che dovrei accettare. Lei avrà bisogno fino all'ultimo soldo per le tasse dell'università in autunno». «Non è questo il vero motivo», disse lui. Lei arrossì. Stava per spiegare che sua madre avrebbe fatto di sicuro una scena se le avesse scoperto i regali, ma si limitò a dire: «Non posso tenerli». Uscendo di casa il mattino dopo per andare a lavorare, scorse costernata la scatola che conteneva i regali di Frank nella pattumiera colma fino all'orlo, sul bordo del marciapiede, in cima a dei sacchetti unti pieni di rifiuti. Il coperchio della pattumiera sembrava essere stato premuto sulla scatola, ma era caduto e giaceva ora sul marciapiede. Helen alzò il coperchio della scatola di cartone e vide i due regali coperti alla belle meglio con la carta velina. Irritata per questo spreco, tirò fuori la sciarpa e il libro dallo scatolone schiacciato ed entrò in fretta nell'atrio. Se li avesse portati in camera sua, Ida avrebbe voluto sapere che cosa aveva con sé. Così decise di nasconderli in cantina. Accese la luce e scese silenziosamente, cercando di non far rumore sulle scale con i tacchi alti. Tolse poi la carta velina e nascose i regali, che non avevano subito alcun danno, nel ripostiglio del cassetto più basso di un armadio rotto. La carta velina sudicia e i nastri rossi li avvolse in un vecchio foglio di giornale. Poi risalì e li ficcò nella pattumiera. Helen notò suo padre che, sfaccendato, se ne stava a osservarla alla finestra. Passò per il negozio, disse buongiorno, si lavò le mani e uscì per recarsi al lavoro. Vicino all'ingresso principale del parco c'era un piccolo isolotto in mezzo alla strada, un triangolo di cemento all'incrocio di alcuni viali. La gente sedeva là sulle panchine durante il giorno a gettar noccioline o briciole ai piccioni rumorosi che stazionavano lì intorno. Mentre si dirigeva là, Helen vide un individuo accosciato accanto a una panchina, intento a dar da mangiare ai piccioni. Per il resto, l'isolotto di cemento era deserto. Quando l'uomo si alzò, i piccioni si levarono in volo. Alcuni gli si posarono sulle braccia e sulle spalle, uno gli si appollaiò sulle dita, beccandogli le noccioline dal palmo aperto. Un altro piccione grasso gli si appollaiò sul cappello. Finite le noccioline, l'uomo batté le mani e i piccioni, sbattendo le ali, si dispersero in volo. Riconoscendo Frank Alpine, Helen esitò. Non si sentiva nell'umore più adatto per vederlo, ma ricordandosi il pacco nascosto nella sua scrivania, decise di liberarsene una volta per tutte. Raggiunto l'angolo, traversò la strada, dirigendosi verso di lui. Frank la vide venire, senza sapere se la cosa gli facesse o meno piacere. La restituzione dei doni gli aveva fatto perdere le speranze. Aveva pensato che se Helen lo avesse amato, la sua vita sarebbe cambiata, sarebbe andata nella direzione che lui voleva. Sebbene a volte bastasse il pensiero di un altro cambiamento, sia pure di questo genere, per farlo sentir male. Eppure che vantaggio c'era, per esempio, a sposare una donna come Helen per poi avere a che fare per il resto dei suoi giorni con degli ebrei? Così si disse che una cosa o l'altra non faceva poi molta differenza. «Salve», disse Helen. Lui si toccò il cappello. Il suo viso sembrava affaticato, ma gli occhi erano chiari e lo sguardo fermo, come se fosse passato attraverso una sofferenza superandola. Le rincresceva di potergli aver dato un dolore. «Ho avuto un raffreddore», disse Frank. «Dovrebbe prendere più sole». Helen si sedette sull'orlo della panchina, come se, egli pensò, avesse paura che gli si chiedesse di abbandonarvisi. «Helen, mi stia a sentire. Può darsi che io cerchi di fare le cose troppo in fretta. Se è così, mi dispiace. Sono quel tipo d'uomo che, se ama una donna, lo deve dimostrare. Mi piace farle dei regali. Riesce a capirlo? Anche se non sono sicuro che a tutte le donne piaccia riceverne e a far loro. Per me dare è una necessità e non potrei cambiare nemmeno se volessi. D'accordo, allora. Mi dispiace anche di essermela presa e di aver buttato i suoi regali nella spazzatura, costringendola a ripescarli. Ma voglio dirle questo. Perché, senza tante storie, non si tiene una delle cose che le ho comprato? La consideri come un ricordo di un giovane che ha conosciuto una volta e che vuole ringraziarla per i bei libri che gli ha consigliato di leggere. Non tema, non mi aspetto qualcosa in cambio. Frank, lei arrossì. Mi lasci solo finire. Cosa ne dice di un contratto come questo? Se lei terrà uno di quegli oggetti, io riporterò l'altro al negozio e mi farò ridare i soldi. Che gliene pare? Helen non sapeva che dire, ma le premeva finirla con quella storia e acconsentì. Bene, disse Frank. E a quale regalo tieni di più? Beh, la sciarpa è un amore, ma preferirei tenermi il libro. D'accordo. Si tenga il libro. La sciarpa me la può dare in qualsiasi momento ed io le prometto di riportarla. Frank accese una sigaretta e aspirò profondamente il fumo. Helen rifletté se non era il caso di salutarlo adesso che la cosa era sistemata e proseguire la sua passeggiata. «Qualcosa da fare?» domandò Frank. «Voleva solo fare 4 passi». «Niente», rispose. «Che ne direbbe di un film?» Le ci volle 1 minuto per rispondere. Perché ricominciava? Sentì che doveva imporgli in fretta dei limiti per impedirgli di insinuarlesi di nuovo troppo vicino. Ma per riguardo ai sentimenti di lui già feriti, pensò che la cosa migliore era trovare una formula precisa per ciò che doveva dire e dirglielo più tardi con tatto. «Devo rientrare presto. Andiamo, allora. Egli si alzò. Mentre si avvicinavano al cinema, Helen pensò d'un tratto a sua madre e disse, senza rendersene conto: «Non dimentichi che sono ebrea». «E con ciò?» disse Frank. Dentro, al buio, ricordando la propria risposta, egli pensò con esaltazione che era come se avesse sfondato con la testa un muro di mattoni senza farsi male. Helen si era morsicata la lingua, ma non aveva replicato. Comunque, l'estate prossima se ne sarebbe andato.